Eccoci qua, dunque, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì, quindi anche per oggi 24 febbraio del 2021. Il sito della radio è www.ondarossa.info. Per chi volesse invece usare la cara vecchia radio, gli 87.9 è il numero in modulazione di frequenza storico. Con il telefono ancora più storico 06 49 17 50, attivo dal lontano 1977. Ondarossa@ondarossa.info è invece l'indirizzo di posta elettronica. Domani sulle varie pagine di riferimento, sia Facebook, quindi prove tecniche di trasmissione / disorder, ma anche sul sito della radio, andrà la replica di questo programma serale. Dopo il sottoscritto, intorno alle 23 ci sarà 25 o'clock. Salutiamo Maya dalla Sardegna insieme a Nicola Loci di Stigmate, Tabula Rasa Cortina d'Ampezzo. Marco lo abbracciamo qui a Roma. Come Roma è Daniele della Hellbones Record, etichetta molto importante, che ha stampato molte artisti di rilievo. A Bergamo c'è Francesco Cornello. E poi il medico della peste, abbiamo Roger Kemper della Formaldehyde Records, Antonio Zoviet di Omicidio, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Nadir Persegona di Os, Manu Fais di Pioggia d'Ambra, Boschivo, eccetera eccetera. Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Ricominciamo da dove avevamo finito la scorsa settimana, quindi andremo a trattare per l'ennesima volta, ma credo che poi faccia piacere a tutti voi che state ascoltando, uno degli ultimi lavori di Nine Inch Nails. Nel 2020 è uscita una splendida doppietta, Ghost 5 e 6, e il Ghost 5 ha anche un sottotitolo dal nome Together. Il Trent Reznor che non ti aspetti, così dilatato, un Trent Reznor che non canta, ma che ci delizia con queste atmosfere così dilatate, così intense e arricchite da uno splendido piano. Ed è proprio l'uso del pianoforte che soprattutto ce lo fa riconoscere in qualche modo. Questa sera è il turno della lunga Apart. Thank you. Lo abbiamo assorbito completamente questo brano da Together, uno degli ultimi lavori per quanto riguarda Nine Inch Nails in coppia con Locust, uscito nel 2020, scaricabile sul loro sito proprio di Nine Inch Nails in free download. Traccia, come dicevo, assai dilatata, a parte questo minuto finale dove c'è una pulsione elettronica non indifferente. E fa bene Antonio Zoviet a ricordare anche le collaborazioni che ha avuto in passato: Trent Reznor e soci, Peter Murphy, i Coil stessi, ma tanti altri. Qui naturalmente c'è Atticus Ross e Alessandro Cortini. E la prossima settimana ci ascolteremo l'ultima traccia di questo Together, per poi passare a Locust nelle prossime settimane. Saluto Vurnus Aylin, Story Industrial in Piemonte, Like Awake, anche lui ormai lo conosciamo tutti, Like Awake è qui a Roma, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. A Venezia c'è Gin con Eugen Vintras, interessantissimo progetto, diciamo ambient, che ascolteremo presto. Intanto già c'è chi si diletta con dei bellissimi GIF tipo Arianna, un spazio siderale che ben si adattava alla traccia in questione. Inoltre salutiamo Fulvio Biondo di Solar Lodge, Andy Rivieni di Attualità Nera. E noi si va avanti, si va da Simone Salvatori. Tutti sanno l'attività soprattutto con Spiritual Front e ultimamente anche con Last Syndicate, ma ci ha donato anche un'altra idea musicale che porta il nome di Morgue Ensemble. Anche qui scompare la voce di Simone e rimane uno strato di ambient anche in questa circostanza, però arricchito anche di più rispetto a Nine Inch Nails di passaggi elettronici e a tratti anche etnici, che ci fa ricordare per esempio a Kamasots, da queste parti molto apprezzato. L'album in questione è uscito anche in cassetta, si chiama Black Scenario volume 1, il CD è uscito autoprodotto proprio nel febbraio di quest'anno, quindi è di pochissimi giorni fa. Dunque parte Don't Wake Me, Your Flesh Feed My Dream e White Eyes. Ancora Morger Ensemble da questo Black Scenario volume 1. Buonasera Nicola Locci di Stigmate. We'll be right back. Devo dire un grande e inaspettato ritorno questo di Simone Salvatori, una nuovissima dimensione solista, ed è praticamente la prima volta, una dimensione solista che si chiama Morgue Ensemble, Black Scenario Volume 1. Attrazione gotico-industriale, ma ci sono anche dei forti momenti di fascino etnico e arcaico, come la traccia testé terminata. E quindi Simone Salvatori si mostra veramente artista eclettico, che già ci aveva chiaramente deliziato con Spiritual Front, altrettanto con Last Syndicate, peraltro di questo progetto elettroindustriale sta per uscire un nuovo lavoro, e qui addirittura una dimensione ancora più visionaria e lisergica per certi aspetti. Saluto anche Isa Etual, entrata proprio su Morgue Ensemble. Un saluto a Simone Salvatori e noi si va avanti. Bello anche il paragone, perché no, con tomografia assiale computerizzate. Vecchie avventure di Simon Balestrazzi, se non ricordo male. Noi allora, dicevo, andiamo avanti, andiamo in Polonia, andiamo da Job Karma. Anche lui è artista molto apprezzato qui a Prove Tecniche di trasmissione. Pian pianino sto mandando anche la vecchia produzione di Job Karma, tenendo conto che in finale Society Suicide è del 2014 e dopo, a parte un singolo, non è uscito più nulla. Arriviamo al 2001, quindi 20 anni fa. 20 anni fa usciva questo Newson. E ci ascoltiamo Moritz. Jakob Moritz, le ficcanti tele strumentali di Job Karma. Così introverse, oscure. Si sentono cori di bambini, ma permane un certo climax lugubre in questa Morus. Masik Fret e Aurelius Pisarsevski, i due componenti di Job Karma. Questa era Newsound del 2001, uscì per la Obu, etichetta polacca, e sono state molte le etichette che Job Karma ha, come dire, bazzicato. Per esempio anche l'italiana Ars Benevol Amator, con la quale ha stampato Strike e Chernobyl. Poi c'è anche la Klang Galerie, etichetta austriaca, eccetera, eccetera, eccetera. Torniamo in Italia, andiamo da Francesco Di Stasio, che vado a salutare. Se non erro anche lui, no, lui ha una origine campana, anche se vive a Roma, e lo teniamo in ballo per andare un po' a ripassarci il suo Stasis. Naturalmente sto parlando di Nihil Impulse, e Stasis è il terzo lavoro per Francesco Di Stasio. Ed esordisce con questa ristampa allargata del lavoro precedente, appunto con la Eight Tower di Raffaele Pezzella. Frangenti noise arricchiscono questo album, che di per sé nasce come dark ambient, ma in molti, molti momenti del disco ci sono delle fughe in avanti rumoristiche. E questa sera ci ascoltiamo Prophets Hopeful. Oasis, per quanto riguarda Nihil Impulse di Francesco Di Stasio, terzo lavoro che riprende e allarga la versione Stasis di qualche anno fa, e lo fa attraverso la 8 Tower Records, etichetta di Raffaele Pezzella. Rumori assordanti arricchiscono molte tracce di questo disco. Frequenze disturbanti e intercettazioni di chissà chi. In questo Prophets of Fall, sesta traccia. Pathos drammatico da disgrazia incipiente, è un clima che pervade tutto l'intero lavoro per Nihil Impulse, che ci ascolteremo anche la prossima settimana. 21.52, questa è Radio Onda Rossa, queste prove tecniche di trasmissione, spazio che esiste qui su Radio Onda Rossa ormai dal lontano 1992. All'inizio si era in due e il programma era diviso tra techno, trance e industrial, poi la splendida solitudine del sottoscritto a partire dal 1994. Apriamo adesso il nostro ripassino riguardante David Tibbett e i suoi Current 93 per l'esattezza. Ripassino che riguarda Live at Bar Maldoror. C'è qui la seconda traccia di ben 23 minuti dal nome Only Shadows of Hooks, che chiaramente ho dovuto sezionare e dividere in due parti, e questa sera ci andremo ad ascoltare proprio la seconda parte.